Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti voi, a tutti quelli che si sono messi in ascolto per passare con noi un'ora in compagnia. Ciao Antonio. Ciao Gesi e un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera c'è la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. E stasera come ospite abbiamo una persona importante, abbiamo il professor Francesco Crosato. Buonasera Francesco. Ciao a tutti. Bentornato. Buonasera Francesco. Grazie a Blu Radio Veneto per l'invito. Ecco, che Francesco ci racconta, ci legge sempre delle belle simpatiche cose, vero Francesco? Sì, oggi leggeremo qualche fiaba come anche altre volte abbiamo fatto, sì. Poi alcune poesie. Bene, bene. E vedremo, bene. Insomma. Allora, come prima canzone faremo ascoltare una vecchia canzone presentata a Sanremo nel 1953, cantata da Carla Boni, intitolata Viale d'autunno. Tristemente mi hai detto, è finita, è finito l'amore più vero, il più puro, il più splendido amore. Ma una lacrima bagna il tuo viso, quella lacrima dice al mio cuore, non potrò lasciarti più. Lasceremo mai, lo sai, lo sai, l'amor che ti giurai vive ancora di più, tutta una vita di dolcezze. Le dolci ebbrezze non sanno mentire, lasciami parlare il cuore che vive in ansietà, che trema di timore, che vuole questo amore. Oh, o ne morrà, non potrò lasciarti più, mai più. Mai più la gioia ed il dolore sei tu. Abbiamo ascoltato Viale d'autunno, da canzone presentata a Sanremo, anzi che ha vinto a Sanremo nel 1953. Volevo dire che stasera siamo sempre in tema perché invece che un cantante solo facciamo il tema canzoni di Sanremo, e questo tema lo riprenderò anche la prossima volta, visto che siamo vicini al prossimo Festival di Sanremo, che è ben diverso da quelli precedenti. Benissimo. Allora, diamo la parola al nostro ospite. Allora, questa occasione avevo pensato di iniziare con la lettura di alcune mie fiabe. Qualcosa dovevo aver letto anche in passato, tratto dal mio libro Ometti neri in camera. Ecco, sì, hai letto. Ecco. Allora, questo libro è suddiviso in 20 fiabe di una sola cartella. C'è una fotografia a sinistra che richiama un particolare della casa e poi un disegno di mio caro amico Alessandro De Bei sulla destra, che appunto riprende l'idea creativa nata da questa immagine di un particolare dell'appartamento. Vi leggo due fiabe. La prima sarà Il torrente Sigfrido, che parte dalla foto di un rubinetto di casa, da cui nasce l'idea di un torrente di montagna. Il torrente Sigfrido. Ermenegildo abita in uno sperduto paese di montagna, quattro case aggrappate ad uno spuntone di roccia. Ha come unico amico il torrente Sigfrido, che scendendo dal ghiacciaio attraversa in fretta il paese. Ermenegildo non riesce mai a parlargli. «Non ce la faccio più a stargli dietro!» gli grida ansimante, guardandolo scendere a valle. E Sigfrido: «Devo correre, Ermenegildo, la corrente mi spinge via!» In inverno l'amicizia si consolida. Sigfrido se ne sta lì, bello ghiacciato, ed Ermenegildo può parlargli con calma, scivolargli sopra e anche pestarlo, se è il caso. Con l'arrivo della primavera, però, Sigfrido torna a sciogliersi e a correre, correre, correre. Durante l'ultima sgelata, Ermenegildo dovette interrompere un importante discorso sulla pesca delle trote. Sigfrido, infatti, gli stava svelando strani segreti su ami, lenze ed esche, quando se lo sentì sciogliere sotto i piedi. «Aspetta, aspetta!» lo implorò. «Non ce la faccio, mi sento mancare!» Ermenegildo passò la primavera così arrabbiato che quando arrivò l'estate scappò al mare per dimenticare torrenti e trote. Un afoso pomeriggio, mentre versava dell'acqua da un secchiello su una buca, sentì la voce dell'amico. «Vuoi farmi sparire nella sabbia, Ermenegildo? Riportami tra le montagne, ho nostalgia dei boschi e delle vallate!» Ermenegildo scrutò il secchiello da sotto in su, finché si convinse che si trattava veramente della voce dell'amico. «Vabbè, ti riporto indietro, ma tu devi dirmi tutto ciò che sai sulle trote». Sigfrido riprese così a raccontare di ami, lenze ed esche, ed Ermenegildo ad ascoltarlo rapito. Ascoltava, ascoltava e camminava per riportarlo tra i monti, ai piedi del ghiacciaio. Più l'ascoltava e più avrebbe voluto tenerlo con sé dentro quel secchiello. Ad un tratto però, mentre l'amico gli stava raccontando di una trota bellissima e misteriosa, scivolò su un sasso bagnato. Il secchiello gli sfuggì di mano e Sigfrido finì di nuovo tra le rocce. Ermenegildo cercò di fermarlo, poi sentì di averlo perso per sempre e lo guardò malinconico dall'alto percorrere ancora una volta anse e meandri, immergersi in grandi vallate. Verso sera intravide in fondo, oltre il bosco, la misteriosa e bellissima sagoma di una trota, poi un'altra e un'altra ancora, finché tutta l'acqua si popolò delle trote grandi e piccole di cui Sigfrido gli aveva parlato, trote argentate, luccicanti come stelle, che scendevano silenziose coi loro segreti verso il mare. Bello, bello, ecco, empatico. Questo è proprio sulle cose che se ne vanno nella vita e di cui resta il ricordo. E quindi è una fiaba anche così, che è anche un richiamo abbastanza intenso. Poi ce ne sono, me ne leggo un'altra, che si intitola La fuga del pesce spada. Allora, come è nata questa fiaba? Qui c'è sempre la foto di un particolare della casa, di questo appartamento, il secchiaio con dei coltelli, uno in particolare che è più fuori dal secchiaio che dentro. Da questo ho pensato appunto a questo pesce spada che se ne va dal mare e raggiunge la terraferma. Il mio amico Alessandro De Bei ovviamente anche di questo ha fatto poi il disegno a china. Quindi immaginate 20 fiabe, titolo del libro, ripeto, Mettineri in camera, con 20 particolari in questo piccolo appartamento da cui nasce l'idea creativa. Allora, questo disegno cosa rappresenta? Rappresenta, mentre la foto ovviamente rappresenta questi coltelli di cui uno appunto è un po' fuori dal secchiaio, invece il disegno rappresenta il coltello trasformato in pesce, quindi proprio l'idea che è nata da quell'immagine. Sì, sì, sì. Ecco. Allora, vediamo la fuga del pesce spada. Un pesce spada, stanco di vivere nel mare, decise di raggiungere la spiaggia. Appena uscì dall'acqua, i bagnanti scapparono per la paura. Solo un bambino, di nome Bosego, capì che quel grande pesce appuntito voleva semplicemente divertirsi e si mise a giocare con lui a palla. Le cose all'inizio andarono bene, finché il pesce spada, inesperto, forò la sfera da parte a parte. Bosego se ne andò singhiozzando con la palla moscia tra le mani e il pesce, solo e triste, si allontanò, dimenandosi verso la pineta. Per 2 giorni si aggirò fra le piante e poi finì tra i pesci rossi della vasca di una grande villa. Sarebbe rimasto lì tutta l'estate se Saturnino, che abitava quella casa, non avesse segnalato l'insolita presenza ad una delle cameriere che si mise a gridare. Il pesce spada allora abbandonò gocciolante la villa e raggiunse l'autostrada per realizzare un suo vecchio sogno, trascorrere qualche giorno a Roma nella fontana di Trevi. Un camionista che trasportava surgelati, notato il pesce spada con una pinna alzata, lo infilò nella cella frigorifera tra filetti di sogliola e tonni e lo scaricò ai piedi del cartello con su scritto Roma. Non appena riuscì a scongelarsi, il pesce spada raggiunse il centro della capitale. Tra lo stupore dei turisti, puntò in alto lo spadone e si tuffò nella fontana di Trevi. Si mise subito ad ingurgitare le monetine sparse sul fondo, un po' perché aveva fame, un po' per rinforzare lo spadone. Per questo suo comportamento sconveniente, venne invitato dai vigili urbani ad andarsene. I turisti giapponesi lo salutarono malinconici perché non rimaneva loro più nulla di originale da fotografare. Lo sconforto assalì anche il pesce spada, che cominciò a capire cosa significa sentirsi un pesce fuor d'acqua. È bello, sì, sì. Evocativo. Ah, sì, molto, molto evocativo. Con sì. Qualche significato dietro. Ecco, io direi che... Allora, andiamo alla seconda canzone. Trattiamo, appunto, come ho detto prima, le canzoni un po' più retro di Sanremo, anche perché penso che vada bene ascoltare qualche volta anche queste canzoni che hanno fatto parte della nostra vita. Allora, nel 1957 Claudio Villa ha lanciato proprio a Sanremo ed è arrivato primo Corde della mia chitarra. È tornata, è tornata. È tornata, l'hanno accolta le stesse cose, l'hanno attesa le stesse rose, dolce sogno dagli occhi verdi, è tornata, ma è troppo tardi. Troppo tardi, per chi aspettò. Corde della mia chitarra, se la mano trema sull'accordo, se la musica si perde nell'indifferenza d'uno sguardo, corde della mia chitarra, tremate, perché non suonate soltanto per me. Ah, com'era dolce questa musica. Come adesso sembra inutile se non ci ascolterà. Non vi faremmate corde della mia chitarra, suonate per me. Eccoci di nuovo in studio e lasciamo quindi la parola di nuovo al nostro ospite Francesco per un ulteriore viaggio in questo favoloso mondo. Favoloso mondo. Allora, dalle fiabe, in modo abbastanza, direi, naturale, ecco, cerchiamo di passare a delle brevi storielle ironiche che in qualche modo possono essere collegate anche al mondo della fiaba. E allora, questo libro in realtà è un librettino piccolissimo, di 7-8 centimetri per 7, non so, una roba del genere, e si intitola Strani incontri, con disegni di Michele Bonotto, che è un bravissimo grafico trevigiano, e qui ho raccolto in ordine alfabetico una serie di storielle che rappresentano l'incontro tra due parole inventate che si incontrano e si trasformano come un po' le persone. Ad esempio, Afa e Afo. E poi sono in realtà storie d'amore. Ma lo capirete immediatamente nel momento in cui appunto vi leggerò questa prima breve storiella. Afa e Afo, appunto. Afa aveva sempre caldo. Andò al mare e incontrò Afo, che come la vide si trasformò in Scafo. Ma quando Scafo correva, l'Afa spariva. E così Scafo, per non perdere la sua Afa, se ne stette in mezzo al mare tutta l'estate. E pian piano, per l'Afa, soffocò. Ah, che bello! Sì. E quindi è una storia d'amore, costruzione in realtà. Linguistica. È una storia d'amore, di questo che soffoca per amore. Vediamo invece questa sull'amore come un fatto possessivo. Ago e Aga. Ago, tipo asciutto, era agro della moglie Aga, che gli stava sempre addosso. Cominciò a bere e divenne un lago. Aga, pur di stargli accanto, si trasformò in draga. L'ago allora prese una brutta piega, si allungò e divenne uno spago. Neanche questo bastò. Draga, fuori di sé, si arrotolò e si trasformò in prosciutto di Praga, per costringere Spago a stringerla. Ecco, che bella fantasia. Il possesso. Vediamo questa. Ana e Ano. Ana amava, bramava anzi talmente i gioielli che col tempo Ana si trasformò in collana, spingendo il debole Ano per soddisfarla a diventare uno svelto di mano. Le perle però una notte gli scivolarono dalle dita e a svelto di mano non rimase che un filo di lana. Che carine, ecco, quello che ruba per amore. Che carine. Aro e Ara. Aro, uomo un po' spento, una cura si trasformò in faro e fu contento. Contenta però non era la moglie Ara, donna coi piedi per terra, Ara, che proprio non riusciva a chiudere occhio dormendo con un faro. Ara prese allora faro, lo trasformò in caro, caro si spense e l'abbracciò. Ma che bella, bello, bello, sì. Che tenere, no? Sì. Aso e Asa. Aso, ragazzo pieno di fiuto, si trasformò ben presto in naso e scoprì la bellezza di Asa. Asa, fanciulla assai sensibile, restò subito impressionata. Ma in camera oscura, Naso sparì nel nulla durante un misterioso travaso. Questa CD era un ballerino che girava tutto il giorno su se stesso. La sua vita cambiò quando cominciò a cantare Io vagabondo dei Nomadi e divenne CD Rom. Bella, bella questa, bella questa. C'è la costruzione proprio. Cio e Cia. Cio avrebbe dato un occhio per Cia. E fu subito Guercio. Questo è sul CUD, che sarebbe un po' da leggere in periodo da 7:30, denuncia dei redditi. CUD, no? CUD era una vecchia e arcigna segretaria dell'ufficio imposte, che in certe torride notti estive non disdegnava di lasciarsi infiammare da qualche bel modello unico. Che è una distillazione, sì, praticamente di parole. Esatto, io facevo quando andavo a scuola a Colle Umberto di Conegliano, Treviso Colle Umberto, con Umberto Treviso in autostrada, pensavo alla nuova storiella da mettere in ordine alfabetico. È fantastico. Questa ad esempio è molto romantica. Ero ed era. Ero era ossessionato dal suo passato, Ero, sì. E divenne nero quando si ricordò che Era in gioventù l'aveva tradito. Andò a chiudersi addirittura in convento e si tramutò in cero. Era pentita si trasformò in sera per vederlo ardere. Mamma mia, ma che... ci vuole la fantasia, capacità proprio di sintesi, anche fulminea, veramente, perché giochi di fantasia, giochi di fantasia, la fantasia. Sì. Questo è più sociale, vediamo se vi piace un po' anche su un certo ambientino delle nostre città di provincia. O e A. O era un ricco e arrogante industriale che si trasformò ben presto in Io Ho. A era la sua bella segretaria in cerca di riscatto sociale, che una volta sposato Io Ho divenne Lui A. Lui Io. Io, Lui A. Lui A. C'è una trasformazione proprio. Ecco, ne leggiamo ancora? Sì, sì, certo. Va bene, allora completiamo. Poi sono in ordine alfabetico, vedete, io sto anche... ovviamente saltando, vediamo questo. Oro e ora. Oro era un tipo assai prezioso. Ora era assai precisa. Col tempo Oro divenne un orologio d'oro e ora si fece suora. Ecco. Questo è sulla vita di coppia, che è un po'... sì. È un po' stagionata e c'è una certa voglia di libertà. Qua e qui. Qua non voleva saperne di muoversi da casa. Finì in parete e divenne un quadro. Qui, che avrebbe voluto girare il mondo, si tramutò in aquilone e se ne andò. Aquilone. Questa è sulle separazioni, sui divorzi. Rot e Rut. Rot era sempre stanco e svogliato. Rut soffriva di problemi digestivi. Tiravano avanti tra uno sbuffare di Rot e una eruttazione di Rut, così che un giorno decisero di divorziare. Durante gli innumerevoli e penosi incontri col giudice, però, Rut divenne sempre più Rut. Rott si trasformò in Rottweiler e la piccola Rett, nata dalla loro sfortunata relazione, in Retta. Ma sempre ci vuole veramente una fantasia. Sì. Tire Tar. Tire era un grande, robusto e prestante camion. Tar era una pubblica pesa. Una notte Tir, piano piano, a fari spenti, le si posò sopra. Tar tartagliò appena, poi sotto il peso di Tir, per qualche dolcissimo istante, perse la parola. Ecco, e concludo con queste due. Uno era un single per scelta, finì in coppia con una, tradì se stesso e divenne unicorno. L'ultima. Unicorno. Ultimissima. Uro e Ura. Uro era un duro e col tempo si tramutò in muro. Ura, per seguirlo, si fece mura. Muro, al vederla, si eresse e mura si trovò dicinta. Mamma mia, si vuole effettivamente la capacità di, a parte la sintesi e compagnia, ma poi anche il senso dell'umorismo, che evidentemente appunto, è parte integrante di questo tipo di composizione, certo. Insomma, anche essenzialità e ironia, in effetti, è ironia, sono degli elementi trovare, che sono fondamentali. Beh, l'ironia in modo particolare, certo. In tempi piuttosto musoni come questi, l'ironia è essenziale, direi. Ecco. Ma sono belle cose, simpaticissime, che io è la prima volta che sento cose del genere, insomma, ma perché dell'ironia ne ho sentite, ma bella così. Una specie di haiku strano, diciamo. Sì, sono belle, essenziali, ironiche. Andrebbero fatte per essere valorizzate in un ambientino tipo un po' di jazz, un po' di musica di sottofondo, una specie di bistrò, esatto, diciamo, così, quello sarebbe un po' i locali di una volta che avevamo nella provincia. Lì ascolta un po' di musica, un po' di cose, si allieta. Può essere un'idea per un prossimo, magari, tipo di spettacolo, una performance, qualcosa di questo tipo. È vero. Ok. Allora proseguiamo con un'altra canzone. Il nostro intermezzo musicale. Sì, ecco, e allora con la terza canzone. Questa è del 1956, quando fecero delle canzoni. Non era proprio Sanremo come al solito, erano delle voci nuove che presentavano. Vabbè, e tra le altre canzoni ci fu La colpa fu, che è cantata da Ugo Molinari. Portava un fiorellino nei capelli, un fiorellino rosso come il fuoco, e aveva gli occhi azzurri tanto belli. La bella verità, amore. Lassù sui monti capitò un albino che disse alla ragazza tipo sposa. Suonarono le campane un bel mattino, a pieme di calore, che amore. La colpa fu del rosso fiorellin che per la bella del cadore segnò il destino. La colpa fu. Passarono gli anni e un giorno la bambina col babbo chiese dove sta la mamma. La mamma è andata in cima del cadore, ti porterà un bel fiore. Che amore. Il monte innamorato della bella, che aveva il fiore rosso nei capelli, non la lasciò tornare al casolare per riportare il fiore, e muore. La colpa fu del rosso fiorellino che per la bella del cadore segnò il destino. La colpa fu, la colpa fu. Un fiore rosso porta nei capelli la bimba che si è fatta signorina, e c'è un alpino che la vuol sposare. A piede di cadore, che amore, che amore. Un velo bianco ed una penna nera si son per sempre uniti a primavera. La colpa è stata di quel rosso fiore, di quel bel rosso fiore, che amore, che amore. La colpa fu del rosso fiorellin che per la bella del cadore segnò il destino. La colpa fu del rosso fiorellin che per la bella del cadore cambiò il destino. Ed eccoci in studio di nuovo. Prima di lasciare la parola al nostro ospite, abbiamo il siparietto, diciamo, tradizionale che quasi sempre vi proponiamo, storie di che altri. Diciamo poesia in altre lingue con poi la traduzione in italiano, che cerchiamo di rendere al meglio che possiamo, naturalmente consapevoli e consci dei nostri limiti. Correspondance di Charles Baudelaire. La nature est un temple où des vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui observe avec des regards familiers, comme des longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les eaux de bois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphantes, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sons. La natura è un tempio. Le sue colonne viventi pronunciano talvolta parole incomprensibili. L'uomo la attraversa fra foreste di simboli che osservano il suo incedere con sguardi familiari, come le lunghe eco, che lontano si fondono in una tenebrosa e profonda unità immensa come la notte e come il chiarore. I profumi si accordano con i colori e i suoni. Ci sono profumi freschi, come carni di bimbi, dolci come degli ovoi, verdi come pascoli, e altri corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno l'espansione delle cose infinite, come l'ambra, l'incenso, il benzoino e il muschio, che cantano i fervori dello spirito e dei sensi. Bene, così adesso diamo la parola al nostro ospite, il professor Francesco Crosato. Grazie. E allora, dopo questa bellissima poesia, famosa tra l'altro di Baudelaire, no? Il simbolismo, un collegamento con Apollinaire, che ha scritto una raccolta famosa dal titolo Bestiario, no? E ispirandomi a quella raccolta, guarda caso, senza mettersi d'accordo, io avevo scritto davvero un piccolo bestiario d'amore, parlando e collegandomi a questi animali, immaginando questi animali che si incontrano, no? Quindi creiamo questo piccolo filo con anche gli altri interventi che ho fatto, no? Dalla fiaba a strani incontri, incontri di parole, adesso incontri di animali, quindi restiamo un po' su questo solco. Allora, piccolo bestiario d'amore. Il cammello e il dromedario si incontrarono per le gobbe, il cammello e il dromedario si infilarono tra le dune e si sdraiarono alla luna. La farfalla e il bruco, di fiore in fiore svolazzava la farfalla, quando incontrò un bruco che li ricordò il suo cupo passato. Molto tempo passò prima che la farfalla riprendesse il volo. Il gambero e la lepre. Un gambero, meditabondo, uso far suoi tutti i più sofferti e astrusi problemi del mondo, a tornare 100 e 100 volte sui suoi passi, si innamorò perdutamente di una giovane lepre, veloce e lesta. Il gambero allora finalmente abbandonò quell'insana sua testa. La medusa e il polipo. Si fusero talmente la medusa e il polipo che l'uno non riconosceva più l'altro, nel povero suo io sepolto in quel simbiotico e mortale coito. La capra e la carpa. Una capra morigerata e parca, da sopra la sua panca scorse lungo il fiume una carpa che succhiava il tacco di una scarpa. Scandalizzata allora, la capra gridò alla carpa della scarpa: porca! Il cavallo e la cavalletta. Un cavallo un po' attempato si sentiva intimamente attirato da una acerba adolescente cavalletta, che però, come lo vedeva, saltellava in fretta, agile e snella, tra le braccia di un giovin cavalletto a posar come modella. La rana e il pesce. Una rana, quando vedeva passare nello stagno un bel pesce, rosso, vivo, faceva la gatta morta. Il serpente e la colomba. Un serpente, pur attratto da una colomba, non riusciva a levarsi così alto in volo. La colomba, pur attratta dal serpente, non riusciva a lasciarsi cadere così in basso. Il serpente sparì sottoterra, la colomba svanì oltre le nuvole. L'amore alle volte non riesce. Il pio bove e la giovenca. Il giovane pio bove carducciano si sentiva soffocare dall'amore possessivo del poeta, che gli impediva con quella sua presenza ossessiva di frequentare una giovane e prosperosa giovenca. Il pavone e la scimmia. Un pavone si pavoneggiava davanti ad una scimmia che lo scimmiottava pavoneggiandosi. Sì, belle scimmie sono. Adesso concludiamo le ultime con il gatto e la gattina. Un gatto camminava tutto il giorno gattoni per sedurre l'amata sua gattina, che non sembrava però trovare la cosa particolarmente originale. La capra e il cane. Una capra si innamorò del cane, di una pistola che per gelosia le sparò. Acrobazie e reminiscenze letterarie in ordine sparso. E concludiamo con l'ultima, la colomba e la mosca. Una bianca colomba, pura, vergine e immacolata, per scoprire la sua parte oscura, sfiorò una mosca dalla pelle nera. La colomba divenne meno eterea e perfetta. La mosca meno dozzinale e sporca divenne una bianca mosca. Ecco, sono grande. Quindi ispirato un po' al bestiario di Apollinaire, trasformato e rielaborato. Bene. Qui gestiamo la poesia francese in qualche modo. Bene, così. Andiamo avanti con una canzone? Direi di sì. La vita è un paradiso di bugie. Di bugie. È passato un giorno intero e non hai mentito ancora. Che cos'è questo mistero? Mi smarrisce, m'addolora. D'ogni strana tua invenzione ho ho un bisogno un po' crudele, voglio fiabe interminabili, saporose come il miele. La vita è un paradiso di bugie, quelle tue, quelle mie, che ci danno una calda ansietà. Son stelle risplendenti sulle vie, profumate, incantate e lontane dalla buia realtà. Amo soltanto te, io non ti lascio più, ma se mi manchi tutto è finito per me. La vita è un paradiso di bugie, caravelle colorate, dondolanti nella felicità. Firmamento di bugie sulle vie dell'amore, sempre scie accenderà. Eccoci di nuovo in studio col nostro ospite, il professor Francesco Crosato, il quale ci leggerà ancora qualcosa di bello. Sì, adesso pensavo, sempre seguendo un po' una linea, la linea un po' del contenuti d'amore in qualche modo, delle vere e proprie poesie d'amore che si trovano su un mio vecchio, una mia vecchia raccolta poetica, la prima in realtà, che si intitola Cos'hai che non parli, del 94, anche esaurito come libro. Pubblicato da Ensemble 900. C'era una sezione che si intitolava Per Clodia. Per Clodia, voi sapete che è l'amata dal grande Catullo e che in realtà si chiamava Lesbia. Io non volendo mettere il nome della mia amata, ho messo il vero nome di Lesbia. E è una raccolta, quindi, che mette insieme un po' di sentimento e di ironia, però di un amore ormai finito. Poi uno, insomma, le poesie d'amore le può fare prima, le può fare durante, le può fare dopo. In questo caso si parla di poesie dopo, del dopo storia d'amore, quando ormai l'amore è terminato. Allora, vediamo la prima. Gli amici mi ripetono. Gli amici mi ripetono che non una, ma 30 e più pietre devo metterci sopra. Io convengo, acconsento, ubbidisco, ma quando scendono le tenebre, in tenerissimi sogni lei mi viene a cercare. Io la sfioro, la bacio, cedo, e ad una trepidante sollevo quelle 30 e più pietre sotto cui ti ho, mio tenerissimo amore, sepolto. Mamma mia. Lapidario. Adesso, lapidario. Adesso la gesuina si mette a piangere. ho questa, rientrato da 2 o 3 giorni di ferie, ho trovato la mia cassetta piena zeppa di conti correnti, di te neanche una riga, smarrita tra una bolletta del gas o dell'Enel. Adesso ormai non ci sono più, non guardo più la porta, solo posta elettronica ormai. Oppure questa, sempre sulla stessa falsariga ironica: vorrei trovarti sotto le mie candide lenzuola stasera col tuo nasino all'insù, su prendi le chiavi, amore, si saranno perse nel fondo della borsa, o le hai forse cacciate in gola a uno di quei tuoi vasi di fiori. Il telefono squilla appena, sussurra, poi tace, pentito. Su, telefona ancora, amore, non sarà un piccolo scatto a mandarti in rovina. Ah, mamma mia. L'attesa della telefonata. Oppure un prestito. Sono ridotto ad attaccarmi a 2 o 3 dei tuoi libri per sperare una tua telefonata. Il mio amore è ridotto a un prestito. E queste poi sono cose che abbiamo provato, l'uscire in giro per la città a cercare l'auto della tua amata. Da troppo tempo, se scorgo un'auto come la tua, sepolta in un parcheggio, mi aggiro come un ladro per scoprire dietro al lunotto quel tuo cagnolino dalla testa semovente. Ma perché non ti muovi in autobus? Sono misogino, odio tutte le donne, tranne te. Sono misantropo, odio tutti gli uomini che hai avuto. Sono masochista, mi piace farmi del male, ti vengo a trovare. Forte sta qua. Sì. Scellerata, ciò che hai perso ti è ignoto, ciò che io ho perso mi uccide. Un'estate della mia vita, come sai, non eterna, se n'è andata senza vederti. No, però questa qui fa pensare. E queste sono, ecco, questa breve raccolta così di poesie, appunto, in cui si mescola il sentimento, diciamo, l'ironia, il dolore per la perdita dell'amata. Adesso, se c'è il tempo, volevo leggervi invece e concludere poi in realtà con un breve racconto che direi è sempre nel solco di questa impostazione, cioè amore, sentimento, fantasia, leggerezza. È la storia strana, molto strana, quasi fiabesca, di un camionista, che di solito i camionisti vengono visti sempre come persone molto rudi, no? Sì, certo, sì, non sognatori, invece questo fa eccezione. Ho inventato questo personaggio dal nome strano, che anche i nomi aiutano, no? A fantasticare, Arciboldo, camionista sognatore. Vediamo cosa è successo a questo Arciboldo. Sognare non è attività che ci si aspetti da un nerboruto camionista, ma Arciboldo era un camionista sognatore. Amava contemplare il mondo attraverso il finestrino del suo fiammante camion, anche se, verso sera, osservando accendersi ad una fioche, lucidi lampioni e sbiadite insegne pubblicitarie, cedeva ad una sottile malinconia. A questo strano camionista, direte voi, uomini di mondo, mancava certo una donna, e non si può dire abbiate tutti i torti, anche se Arciboldo non avvertiva tanto la mancanza di una donna che dilagasse prorompente lungo i più riposti anfratti delle sue, peraltro piacevoli giornate, quanto una discreta femminile presenza che sapesse condividere con lui quella parte residua, ma non per questo meno preziosa, di vita che era solito consumare fuori dalla cabina del suo amato autocarro. Da un po' di tempo, però, quel fastidioso senso di vuoto che lo assaliva verso sera aveva cominciato ad inquietarlo anche alle prime luci dell'alba, quando un po' assonnato sostava il casello autostradale per estrarre il biglietto dalla feritoia e una dolce voce femminile gli sussurrava «Buon viaggio!». Arciboldo ripartiva, avvertendo però in sé una quasi impercettibile resistenza. Per un istante, complice forse il sonno, che non voleva saperne di abbandonarlo, gli pareva che quella voce appartenesse alla specialissima donna che andava cercando. E una strana mattina, dopo aver estratto, come sempre, non senza una qualche trepidazione il biglietto, mentre stava lentamente innestando la marcia per ripartire, sentì quella stessa voce sussurrargli «Buon viaggio, Arciboldo!». rimase inebetito con la mano sulla cloche, quasi ad aspettare che quella feritoia metallica partorisse qualche altra dolce sillaba, ma le auto, incolonnatesi dietro, cominciarono a strombazzare feroci e Arciboldo fu costretto a ripartire. Superata la sbarra, immessosi in autostrada, però uscì veloce al primo casello per tornare indietro a riestrarre il fatidico biglietto, ma la vocina gli ripeté soltanto il solito, banale e impersonale: buon viaggio. Se l'era dunque sognata quella voce che l'aveva affettuosamente chiamato per nome, il suo desiderio di una donna era dunque diventato col tempo così grande da averlo spinto a sentire un suono del tutto inesistente. Arciboldo oltrepassò ancora la sbarra e riuscì al primo casello per poter rientrare in autostrada ed estrarre nuovamente il magico biglietto, ma la voce gli sussurrò il solito buon viaggio. E allora testardo Arciboldo ripercorse ancora il tratto di autostrada che lo separava dal primo casello, ripagò e ritrascinò il fiammante camion ai piedi della sbarra per estrarre il talloncino famigerato, e questa volta la misteriosa voce, quasi a voler premiare tanta caparbia fiducia, non lo tradì e gli sussurrò dolcemente: buon viaggio, Arci. Arci, pur di riascoltare quel dolce suono, continuò a passare, a ripassare sotto la sbarra decine e decine di volte, e sempre quella voce ormai fedele lo accontentava: buon viaggio, Arci, con tono che almeno a lui pareva sempre più intenso, quasi innamorato. Come poteva essere successa una cosa tanto straordinaria? A chi poteva mai appartenere quel dolce suono? Col passare dei giorni e delle settimane, Arciboldo smise di porsi tante difficili, in fondo inutili domande, e si abbandonò a quel tenero destino, lasciandosi ogni giorno cullare e salutare da quel seducente augurio: buon viaggio, Arci. Un pomeriggio Arciboldo entrò in un autogrill e, mentre seguiva dalle ampie vetrate i camion che sfrecciavano lungo l'autostrada, sentì quella dolce voce alle spalle: ciao, Arci. Si voltò. Era Hélène, una ragazza conosciuta una lontana estate al mare, quando era ancora adolescente. Hélène gli sorrise e gli ripeté: ciao, Arci, come si fossero lasciati la sera prima sulla spiaggia. Fra 2 minuti finisco di lavorare e sono da te, continuò come gli stesse sussurrando la cosa più naturale di questo mondo. Attendendo Hélène, Arci riprese a guardare i camion che sfrecciavano sull'autostrada sotto le ampie vetrate dell'autogrill. I suoi occhi brillavano, finalmente felici. Bella. Una poesia in luoghi inusuali. Sì, veramente inusuale. Storia d'amore, fantastica. Facciamo l'ultima canzone, sì, che è... Allora, Gio Sentieri ci presenta Quando vien la sera, che è del 1960. Son qua solo per te. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, stiamo vicinissimi. Quando cala il sole e la luna appare, tu non puoi mancare. Mentre bacio te, mentre baci me, lascia che ci guardino. Per gli innamorati questa è l'ora di sognare. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, stiamo vicinissimi. Sotto braccio a me, sotto braccio a te, sembra di volare. Quando viene la sera, vieni, vieni, vieni, son qua, son qua, son qua, solo per te. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, siamo vicinissimi. quando cade il sole da una parte tu non puoi mancare. Mentre bacio te, mentre baci me, lascia che ci guardino degli innamorati questa è l'ora di sognare. Oh, vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, stiamo vicinissimi. Sotto braccio a te, sotto braccio a me, sembra di volare. Quando viene la sera, vieni, oh vieni, son qua, son qua, son qua, solo per te. Ci siamo ascoltati anche questa allegra canzoncina e diamo ancora la parola al nostro abbiamo professore. Ancora un paio di minuti. Ah, abbiamo così. Ancora sì, esatto. Del tempo. Circa un paio di minuti. E allora cosa possiamo leggere? Beh, restando il tema d'amore, potremmo invece tornare indietro all'infanzia e a vedere il primo amore. Questo è, allora è stato raccolto, è un racconto in questo caso, si intitola Primo amore, fa parte di una raccolta che si intitola La vespa, la nonna e la coda di tigre, una raccolta ancora inedita e il sottotitolo è Un'infanzia tra città e campagna nei primi anni 60, in cui a flash, una cartella alla volta, ricostruisco tutta la mia infanzia dai 6 ai 10 anni. Che bello, in questo proprio. Caso appunto abbiamo questo raccontino, mi sono ispirato tra l'altro a Parise, che nello stesso modo in qualche raccoglie dei flash sull'infanzia mettendoli insieme, appunto abbiamo qualcosa di unitario, nel suo caso l'adolescenza più che l'infanzia. Il ragazzo morto e le comete era il libro. E vabbè, questo è Parise Primo che è scritto, amore. Che ha scritto il Prete Bello. Esatto, il Prete Bello. Allora, era un tiepido pomeriggio di quarta classe. La giovane finta suora, con la gonna blu giù dal ginocchio, i moccassini neri, ci chiese di rappresentare il Medioevo sul quaderno grande. Disegnai un castello con un fossato intorno in una notte di luna. Una principessa prigioniera svolazzava un fazzoletto dalla finestra della torre, mentre un cavaliere scendeva da un cavallo bianco già tenendole una mano, come a dirle «non preoccuparti». Arrivo io. Impiegai tutto il pomeriggio a colorarlo coi pastelli a cera, sfumando le nuvole e le mura illuminate dalla luna. Il mio compagno di banco, Walter, l'astronauta, già ne reclamava una copia. Dietro, Graziella Gabriella l'adocchiò. Celestino ha fatto un disegno bellissimo. La notizia raggiunse Luisella, la più bella della classe, che stava due file di banchi più in là, sul punto più in alto, visto che eravamo come in un anfiteatro. Levai il quaderno, ma lei volle vederlo da vicino. Strappai allora il foglio del quadernone e quando la maestra si piegò per aiutare Danilo, glielo portai. «Questo è per te», le dissi, stroncando in un sol colpo la feroce concorrenza dei compagni maschi. «Ma tu ne facci un altro». Ah, e qui lasciamo questa magia, naturalmente, il nostro ospite è come sempre volato via troppo velocemente e diamo appuntamento. Non ci resta, appunto, non ci resta che ringraziarlo e dare l'appuntamento per la prossima domenica. Grazie a voi. Piacendo sempre. Francesco, sei sempre grande. E... Ma sono piccolo, diciamo. E ci diamo l'appuntamento a una prossima, la prossima grazie, trasmissione. Volentieri. Ecco. Ciao e grazie ancora. Ciao a tutti, grazie. E salutiamo, dando l'appuntamento come sempre, a Dio piacendo, alla prossima domenica. Ciao, ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.